get into the groove, boy, you've got to prove your love to me, yeah. Amici, prego, prendete posto. Scusate, sto arrivando un po' di corsa. Ero nell'altra stanza che stavo finendo di sistemare gli spartiti. Comunque, sedetevi pure sulle poltroncine. Come sapete, le posizioni prendete quelle dell'altra volta che hanno portato fortuna. E ricominciamo il nostro bellissimo viaggio dentro la musica e soprattutto dentro il ritmo. Oggi puntata speciale. Oggi ho dato un titolo incredibile che già dovrebbe riassumere, diciamo, in sé tutto il senso di questo piccolo viaggio odierno. Siete pronti? La puntata si intitola I Tamarri. Applausi. No, beh, i tamarri nel senso buono del termine, non c'è niente di dispregiativo in questo caso, attenzione, stiamo parlando di tamarri perché voglio parlare di quel rock ignorante, quello grosso, quello classico, proprio il rocchettone, e non ridete. Iniziamo subito da una band pazzesca, da un batterista assolutamente fondamentale, veneratissimo da schiere di batteristi, forse un po' meno da chi batterista non è o da chi musicista non è, perché è un batterista concreto e ben poco spettacolare, ma beh, intanto diciamo il nome, Phil Rudd. E chi è Phil Rudd, o Phil Rudd come direbbero gli americani? Ve lo dico io, è il batterista degli AC/DC, gruppo che naturalmente non ha bisogno della mia presentazione né della mia introduzione. Conoscete perfettamente, credo, tutti quanti almeno l'80% del repertorio degli AC/DC, quindi soprassiederemo sull'importanza di questa band nel panorama musicale. Concentriamoci invece sul nostro uomo. Che cos'ha di particolare Phil Rudd? Beh, oltre ad essere un australiano, quindi mezzo matto, addirittura c'è un'intervista a Brian Johnson, dice che suonava tenendo appesa all'asta dei piatti la foto di una donna col seno nudo. Alla domanda del perché avesse messo quella donna col seno nudo, diceva: beh, mi serve come ispirazione, quindi per dire il tipo vero rocker, no? Di altri tempi. Che cosa ha, dicevo, di particolare a parte queste piccole follie? Ha un drumming, quindi un modo di suonare assolutamente concreto e, come si dice in questi casi, davvero molto solido. Al grido di less is more, come dicono gli anglofoni, ma per chi non parlasse la lingua della perfida Albione, traduciamo con meno è più, cioè meno si suona e meglio è. È una regola che non vale sempre, ovviamente, ma che nel caso della musica degli AC/DC sicuramente non può essere smentita, perché le canzoni loro funzionano egregiamente e funzionano anche e soprattutto in virtù di questo ritmo portato da Phil Rudd, che è davvero essenziale. Lui non fa quelli che si chiamano i trick, no? Cioè i licks, cioè tutti i numeri di alta scuola sulla batteria. È assolutamente è il batterista più distante dall'overplaying. Overplay si dice quando si tende a suonare molto, no? Si strasuona, si fanno più note del necessario. Tipo un esempio classico di overplay è quello di Travis Barker, come ho detto nella prima puntata. Ecco, Phil Rudd è l'esatto contrario. Lui fa un colpo di cassa, un colpo di rullante e porta il suo ritmo sul Charleston in maniera molto lineare, ma lo fa con un tocco e una intenzione incredibilmente potenti. Per concretizzare quello che sto dicendo, cominciamo ascoltando il biglietto da visita e poi dopo entriamo più nel dettaglio di questo suo ritmo, perché ho preparato qualche piccola chicca. Naturalmente non si poteva iniziare se non con questo stacco qua, e vi vedo già che siete pronti. Sì, vedo le testoline che si muovono già, vedo i sorrisetti. Questo è un pezzo che, ragazzi, rimarrà eterno per tutta la vita. Senti, un colpo di cassa, uno di rullante. E va avanti così sempre, eh? Beh, vi lascio. Back in Black. Yes. questo è Back in Black. Come avete sentito, non c'è praticamente un colpo più del necessario rispetto a quello che appunto richiede la canzone. Ora, dico questo per quale motivo? Perché quando si ascoltano gli AC/DC e si suona l'air strument, come si dice... sapete che spesso si fa l'air guitar, no? Si ascolta una canzone e si fa finta di suonare la chitarra. Nelle canzoni degli AC/DC è molto più probabile che si faccia l'air drumming, cioè che si faccia finta di suonare la batteria, perché c'ha questo ritmo che ti porta, insomma, che ti prende bene. Allora, io per farvi capire un po' meglio però come è costruito questo groove, che apparentemente è semplicissimo, perché come si dice, è un pezzo poca spesa tanta resa, cioè se foste dei batteristi alle prime armi che voleste iniziare a studiare lo strumento, ecco, questo è uno di quei pezzi che sono relativamente facili da eseguire. E quindi dà subito una bella soddisfazione, perché il pubblico lo conosce, vi fa sentire dei gran fighi e tutto sommato si può fare senza un grossissimo sforzo. Naturalmente, come per ogni cosa importante, per arrivare alla semplicità bisogna conoscere la complessità. L'ho forse detto già la settimana scorsa, è un concetto che continuerò a ripetere spesso, almeno fin quando ascolteremo questa specie di semplicità qua. Ho preparato un piccolo estratto per farvi capire come è costruito un ritmo del genere. Allora, stacco un attimo la base così ci concentriamo. Apparentemente la canzone suona così. Ok? Questo è il classico groove rock. In realtà, come avevo spiegato parlando delle ghost notes sul rullante, cioè quelle notine appena accennate, il ritmo che Phil Rudd porta sul Charleston non è di questi ottavi ta ta ta ta ta ta, ma c'ha un colpo accentato e un colpo di ghost, leggerissimo, suona più o meno così. Si è sentito? Spero di sì. Quindi tatta, tatta, tatta, tatta. E questo messo assieme a casse rullante crea il groove di Back in Black, che suona più o meno così. E via di conseguenza, insomma, ok? Questo è pressappoco come viene costruito questo ritmo. Allora, praticamente sembra semplicissimo, ma in realtà poter portare il tempo con queste accentature costanti non è esattamente immediato, e soprattutto quello che avete sentito non era Phil Rudd, è uno che si è prestato a fare questa cosa qua, non sono neanche io per fortuna, che non ha proprio, come si dice, il groove, si sente che è un po' legnoso, un po' meccanico. Lui invece, Phil Rudd, è fluido, è pulitissimo. Per farvi capire di cosa parlo quando intendo l'attitudine musicale a una canzone, ho scelto un altro brano degli AC/DC dove possiamo apprezzare appieno la tecnica e lo stile di questo grande batterista. È una canzone che parla di quelli che ascoltano, che fanno, che sono vicini al rock, si intitola For Those About to Rock, ed è un brano che ho scelto perché, visto che si parla sempre di grande velocità nei batteristi, io dico sempre, e lo ripeterò anche questo allo sfinimento, che è più difficile suonare lentamente piuttosto che suonare velocemente. Allora, questo è un pezzo dove il drumming è davvero davvero lento, e saper portare un tempo lento così, con stile e con classe, è una roba che non capita tutti i giorni. Ascoltiamolo bene, concentriamoci ancora una volta sul fatto che quello che lui suona è assolutamente minimal, ma perfettissimo. Ecco l'introduzione. Attenzione, perché qua siamo veramente a scuola di batteria. We'll be right back. E questi sono i mitici AC/DC con Phil Rudd alla batteria, e questo è naturalmente For Those About to Rock. Allora, abbiamo sentito questo modo di suonare, sì o no, questa potenza nel groove, pur essendo ridotto davvero all'osso, ai minimi termini. Pochi colpi essenziali messi al punto giusto fanno muovere la testa a chiunque, e questa è la forza della batteria, questa è la forza del ritmo ed anche la forza del rock, perché no. Allora, cambiamo stile di batteria, restando sempre nell'area un po' più tamarra del rock. Ne ho scelto uno che a me fa impazzire, perché è un batterista straordinario e perché c'ha un suono assolutamente riconoscibilissimo. Sto parlando di Alex Van Halen, il grandi Van Halen. Allora, nel 1984, quando esce il loro disco, a me sono drizzati i capelli, ero piccolino, avevo neanche 10 anni e non l'ho ascoltato subito, l'ho ascoltato 2-3 anni dopo. Quando mi è capitato fra le mani il disco di Van Halen, ho detto: e che cos'è sta roba qua? Ho iniziato a pensare che davvero la batteria poteva essere uno strumento interessante da suonare, perché c'avevo questo modo di porsi, questi suoni davvero molto anni 80, perché Alex Van Halen suona un set, a parte ne ha cambiati tanti, ma insomma in quegli anni lì usava questo set con, al posto dei tom, lui usava degli attrezzi che si chiamano rototom. Se avete voglia di googolare, proprio rototom, e sono delle pelli montate su dei telai di alluminio, sono facili da intonare, si girano e si intonano praticamente, quindi possono produrre delle note simili a quelle di un pianoforte, non come il pianoforte naturalmente, però possono essere facilmente intonati e hanno un suono molto molto musicale. Sono usati spesso da tanti batteristi, ma come elementi di accento, insomma come colori nel proprio set. Invece proprio Alex Van Halen li usava proprio come suoni principali del suo drumming. Allora, Alex Van Halen è un batterista che anche lui viene da una formazione musicale colta. Il padre è un jazzista e lui ha iniziato, tra l'altro ha iniziato lui a suonare la chitarra, e il fratello Alex e il fratello Eddie la batteria. Poi si sono scambiati posti con buona pace di tutti, con direi anche eccellenti risultati, visto che Alex Van Halen è diventato un batterista importantissimo e Eddie Van Halen è forse uno dei chitarristi più studiati e più apprezzati della storia. Allora, io volevo partire mettendovi Jump, che era il pezzo chiaramente la hit più famosa, ma per capire un po' meglio il drumming di Alex Van Halen ho scelto altre due canzoni. La prima, Hot for Teacher, è stata considerata da alcune riviste musicali, una in particolare Rhythm Magazine si chiama, una rivista specializzata di settore, l'intro per batteria più bella della storia del rock. Secondo me no, ce ne sono di più belle, però la particolarità dell'intro che fa Alex Van Halen in questa canzone mi fa molto ridere, perché richiama il motore di una moto. All'inizio questo lui lo fa con la doppia cassa. Parliamo poi di Van Halen come tamarrone della doppia cassa. Aveva un set dove aveva messo dei subwoofer dentro le casse della batteria, per farvi capire. Se cercate delle foto sono allucinanti, aveva questi set mostruosi. Questa intro è fatta appunto in doppia cassa e poi con i tom sopra, per simulare, per imitare il suono del motore di una batteria. Ascoltiamocelo e poi entriamo ancora un pochino più nel dettaglio di questo tamarrone. Hot for Teacher. Oh yeah! To teach us, stop and dance. don't feel dirty. Finalone alla Van Halen, avete sentito l'uso massiccio della doppia cassa che fa Alex Van Halen. È un continuo martellare di doppia cassa. E chiaramente lui usa tantissimo molti fil, arricchisce tanto questo suo modo di suonare. Sentite che la batteria è sempre piena, completamente diverso dal modo di suonare che aveva Phil Rudd. Chiaramente non è che non funziona il drumming di Alex Van Halen, anzi funziona, come, però appunto è molto molto molto molto presente, ci fa muovere, ma a me perlomeno dà la sensazione un po' così, come dire, di uno tarantolato, mentre Phil Rudd mi lascia proprio sul divano con buone vibrazioni. Altro pezzo di Alex Van Halen, per sentire anche un altro tipo di approccio che lui riesce ad avere sullo strumento, dove ascoltiamo soprattutto l'intro di questa canzone. Ha un groove molto particolare, perché non si usa il Charleston, ma lui usa il cerchio del rullante per usare un suono metallico, quindi usa cerchio del rullante che fa click click click e poi il rullante stesso per costruire questo groove, un 4 quarti classico, che però lui rilegge, reinterpreta spostando gli accenti, quindi non suona con il rullante come si dice sul 2 e sul 4, cioè 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ma sposta i colpi facendo un e, 2, e, 3, e, qua, e, capito? Vabbè, adesso non voglio fare proprio il solfeggio del brano, ve lo faccio sentire subito. Concentriamoci per un pochettino appunto su questo modo di suonare, di portare il ritmo spostando gli accenti, che serve a in qualche modo vivacizzare un tempo altrimenti dico banale, ma non vuole essere dispregiativo, però insomma un tempo che sarebbe piatto. Lui lo vivacizza spostando negli accenti e usando al posto del Charleston appunto il cerchio del rullante, creando una cosa abbastanza interessante. Lascio contare all'amico Sammy Hagar. Prego Sammy, vai pure. 1 2 1 2. Ok. So come on. Now come on, babe. Please. Oh, baby. Questo è il nostro amico Alex Van Halen. Ve lo ricordate il periodo che aveva i baffoni a manubrio, che sembrava un motociclista di Sons of Anarchy? Mi faceva morire dal ridere, aveva questo look assurdo. Comunque, come batterista niente da obiettare, insomma. L'abbiamo sentito trottare con la sua doppia cassa, l'abbiamo sentito in un groove leggermente più elegante, più morbido di questo genere, e adesso cambiamo ancora batterista. Ne prendiamo uno che è un capofila, un altro di quelli che è stato considerato naturalmente una pietra miliare nella storia del rock. Per quale motivo? Perché ovviamente appartiene alla band rock più pagata della storia. Sto parlando di chi? Dei Kiss. E parliamo del primo batterista dei Kiss, cioè Peter Criss, naturalmente, che fa anche rima con Kiss. Ovvero, se volete preferire chiamarlo col nome d'arte, Catman. Era quello che si truccava da gatto, praticamente. Allora, Peter Criss è un altro di quei batteristi che ci ha messo molto del suo. È... come dire, appartiene alla scuola di Phil Rudd, ma non è che appartiene alla scuola, lui semmai è il caposcuola, perché viene prima cronologicamente, ovviamente, ma mi piaceva aprire con gli SDC. Io non vado in ordine cronologico, non vado neanche in ordine di tecnica, vado così un po' a braccio. Peter Criss è un altro di quelli che appunto suona poco, ma suona le note giuste, suona al momento giusto. Il suo drumming è però piuttosto vario. Ha creato dei ritmi che sono naturalmente nella storia della musica, perché i brani dei Kiss sono scolpiti nella pietra. Ora, sceglierne uno era abbastanza complicato. Lui dà il meglio, secondo me, anche nelle versioni live più che in quelle da studio. Comunque lo ascoltiamo in un pezzo da studio dove si sentono un po' di variazioni ritmiche, e mi riallaccio al discorso che avevo appena fatto per Alex Van Halen, cioè come si rende interessante un ritmo altrimenti piatto come quello del 4 quarti classico nel rock. Ascoltiamoci questo Shock Me e sentite come lui riesce a variare la posizione degli accenti, cambiare leggermente appunto le posizioni dei colpi del rullante per creare un ritmo totalmente diverso, e poi hai dei feel tutti suoi, tutti particolari. Volendo possiamo accostarlo un pochettino a Kit Moon, nel senso che è uno che suona in maniera piuttosto istintiva di Peter Criss. Si diceva che non sarebbe stato capace di suonare la stessa canzone due volte, o meglio, non sarebbe stato capace di suonarla uguale due volte di seguito, proprio perché era uno che ci metteva molta molta passione. Ascoltiamocelo subito, Shock Me. We'll be right back. tutto questo era per capire di che cosa stiamo parlando, insomma, di un modo di affrontare lo strumento batteria pensando soprattutto a come far muovere la testa a noi che la stiamo ascoltando, insomma, quindi poco ma messo giù bene, messo giù duro, insomma. Tra l'altro ci sono piccoli accorgimenti che non ho detto prima, ma insomma anche Catman ha questa leggera tendenza a tenere il beat appena indietro. In che senso? Sembra appena stanco il suo modo di suonare la batteria, ma non è mai fuori tempo. È come dire un battito di ciglia subito dopo quello che direbbe il metronomo, insomma, per capirsi. Questo è ciò che distingue poi un batterista reale da un computer, perché molti dicono: beh, questi pezzi qua si farebbero meglio fare con una drum machine. No, si mette un computer che suona questi pezzi qua perché sono talmente semplici che anche io sarei capace di programmare il computer. Sì, ma lo renderebbe freddo, inumano. Invece il tocco del batterista, che è questa cosa qua che gli dà quel respiro in più, lo rende unico e insostituibile. Ho promesso due pezzi per ogni batterista, non mi dilungo oltre, ascoltiamo un grande capolavoro dei Kiss, questo qua dal vivo tratto da Alive. Niente ragazzi, giù il cappello e su le mani. Rock and roll all night. That party ever reaches. Non si può star fermi su un pezzo così. Io era come se fossi al concerto in questo momento, ragazzi, perché hai sentito che roba hanno tirato fuori questi vecchiardoni. Vabbè, questo era Rock and Roll All Night e questo era Peter Criss, detto Catman, che ci ha regalato un modo di suonare la batteria pazzesco. Chi si è ispirato a lui? E naturalmente al grandissimo John Bonham. Non lo dico mai perché, ma tutti i batteristi sono ispirati a John Bonham, l'ho detto nella puntata numero 2 e lo ripeterò fino all'ultima. Un altro grande batterista molto chiacchierato, molto discusso, ma anche molto molto tamarro, Tommy Lee dei Motley Crue. Ha suonato con altre band naturalmente, ma diciamo che il suo grande successo l'ha ottenuto proprio con i Motley Crue. Lo dico tipo la Maugeri anche questo, ma non so se mi riesce. Tommy Lee è un batterista che è capace di suonare, perché ha un groove molto potente, molto possente. Sicuramente non è il batterista più tecnico del mondo, sicuramente non è il batterista più sensibile del mondo, ma sa esattamente quello che deve fare, sa esattamente quando farlo, e senza ombra di dubbio è uno dei batteristi più spettacolari del mondo, perché se vi è capitato di vedere un suo live, spero dal vivo, ma semmai trovatevi qualche video, Tommy Lee suona anche appeso a testa in giù, vola sulla platea, gira, è incardinato alla batteria, si mette a testa in giù, insomma ha sviluppato anche delle meccaniche particolari per la batteria, perché il pedale è fatto per stare poggiato a terra, non per stare girato, quindi suppongo che abbia delle molle che lo tengono fissato in qualche modo, insomma lui riesce a farlo. A proposito di tamarri con la doppia cassa, lui è il re dei tamarri della doppia cassa. Lui usa molto anche dei suoni elettronici, gli piacciono i suoni campionati, nel suo set c'è tutto un miscuglio di roba acustica, roba elettronica, è uno poco interessato al suono naturale della batteria, molto di più alle sperimentazioni. Comunque sia, è un batterista che a suo modo ha insegnato a tanti cosa vuol dire avere un drumming potente, molto vicino al, se vogliamo, al metal, perché stiamo parlando probabilmente di una forma di, io lo definirei pop metal, pur rimanendo, come dire, vicino a un gusto musicale piuttosto sviluppato. Allora io ho scelto un paio di pezzi, perché anche in questo caso sceglierne fra i tanti che ci sono è abbastanza difficile. Questo qua, il primo, si intitola The Animal in Me, praticamente ci fa capire anche in questo caso come si possa coniugare la old school, no? La vecchia scuola del rock, quindi un ritmo dritto, potente, portato bene, come si possa arricchirlo con degli inserti percussivi e anche più, come dire, di nuovo per recuperare quel modo di vivacizzare un tempo altrimenti banale. Ascoltate soprattutto come Tommy in questo brano lavora sul levare del Charleston. Praticamente immaginatevi sempre di contare 1, 2, 3 e 4, e lui sul 2 e sul 4 di questo brano apre il Charleston e dà questo movimento appunto in levare molto, molto bello e molto musicale. Lo faccio partire subito e poi chiudiamo ancora. Vai! The Animal in Me, senti come attacca. About the lovers that have been lying. Animal in Me, l'animale che c'è in me, questo è Tommy Lee con i Motley Crue, e abbiamo sentito che cosa vuol dire essere sì tamarro con la doppia cassa, ma saperla dosare nei momenti giusti, diverso da quello che faceva Alex Van Halen prima, che era un rullo compressore costante. Tommy riesce a, come dire, dosarla usandola per vivacizzare alcuni fill, alcuni momenti. Siamo, ahi noi, quasi arrivati alla fine di questa puntata, abbiamo tempo per ascoltare un ultimo brano e sarà ancora una volta Tommy Lee a tenere banco, diciamo. Abbiamo ascoltato anche questa sera, spero di essere riuscito a farvi ascoltare diversi tipi di drumming all'interno più o meno della stessa sfera musicale. Ripeto, bisogna prenderlo un po' con le molle, il discorso sarebbe molto più ampio e bisognerebbe entrare molto meglio nel dettaglio per ciascun batterista. Però ho promesso all'inizio, ho promesso anche a Roberto della radio che sarei stato didascalico e leggerissimo, e quindi spero di essere riuscito a farvi capire le differenze che possono esserci fra un batterista come Phil Rudd, un batterista come Alex Van Halen, uno come Peter Criss e uno come Tommy Lee, che pur suonando pressappoco le stesse cose lo fanno con attitudini in modi completamente differenti. Questo poi è il bello della musica, ciascuno ci mette del proprio. Ribadisco e ripeterò ancora mille una volta, nessuno inventa niente, tutti rubacchiano qua e là, ognuno ascolta quello che ha fatto un altro magari 20, 30, 40 anni prima e poi lo rielabora, lo rende proprio e lo rende unico e universale. Allora, chiaramente andiamo a chiudere questa carrellata di grandissimi artisti, ascoltiamoci un pezzo ancora bellissimo dei Motley Crue. Qua si ascolta davvero un drumming ben fatto da parte di Tommy Lee, qui devo dire la verità mi sono più di una volta levato il cappello. Il pezzo ovviamente è emblematico, si intitola Dr. Feelgood, Feelgood, ed è un brano dove soprattutto nell'intro Tommy spacca davvero tantissimo, e ancora una volta provate ad ascoltare come riesce lui a muovere le figure di casse rullante, soprattutto la gran cassa la usa in maniera sincopata. La sincopa è una figura musicale che è fatta di pause. Quando si dice che uno gli è venuto un infarto, si dice anche che gli è venuta una sincope, no? È perché il cuore perde un battito. Quindi immaginatevi che la batteria abbia perso un battito, e quella è la figura, insomma, della sincope. Non ho messo il quark, magari l'affrontiamo la prossima volta perché il tempo stringe. Ancora una volta grazie di essere stati ad ascoltare queste nostre piccole parole, grazie per averci tenuto compagnia, e se avete ancora una volta suggerimenti, richieste, domande, dubbi, critiche, perplessità, la pagina Facebook è lì a disposizione, Into the Groove Radio 23, scriveteci, e soprattutto a tutti quanti buona musica e buone note. Dr. Feelgood, Tommy Lee con i Motley Crue, ciao.